Christine de Pizan, già presente nella nostra scuola con il suo La città delle dame, scrive il Didier de Jeanne d'Arc, il poemetto a Giovanna d'Arco, nel 1429, quando la Puiselle d'Orléans è al massimo della sua gloria. Ne scrive un'ode entusiasta e appassionata, dichiarando che una donna ha ottenuto quello che nemmeno 5.000 soldati, ricacciare gli inglesi invasori e riconsegnare la Francia al suo legittimo re. Secondo la storia ufficiale, Giovanna fu tradita e catturata nel maggio 1430 e giustiziata nel maggio 1431. Quindi Christine avrebbe avuto un anno di tempo per venire a conoscenza del tradimento e scriverne eventualmente. Eppure lei, prima giornalista professionista della storia, così battagliera in difesa delle donne, così attenta a scrivere la verità e a opporsi con violenza a tutti coloro che parlano male del sesso femminile, come dimostra nella Città delle Dame, non scrisse nessuna lamentazione sulla cattura e sul tradimento di Giovanna. Eppure non aveva esitato in una sua epistola a esortare anche in modo energico la regina di Francia a intervenire per riportare la pace tra i due contendenti al trono. «Ehi, regina di Francia!» la apostrofa. «Dormi forse?» E come mai non scrisse nessuna ritrattazione del suo poemetto, nel quale la proclamava eroina e gloriosa salvatrice della Francia e profetizzava un ruolo di quello stesso paese come capo della cristianità? Christine de Pizan, in un altro suo scritto, aveva proclamato la stessa Sibilla sua maestra e guida nel viaggio verso la conoscenza, e grazie a questa relazione lei, Christine, può vedere ciò che agli altri è nascosto. C'è una teoria alternativa molto ben documentata riguardante la storia di Giovanna, secondo la quale ella non morì sul rogo, ma fu sostituita all'ultimo momento da un'altra donna. Giovanna riuscì o le fu permesso di fuggire dalla torre dove era rinchiusa e qualche anno dopo si sposò col cavaliere des Armoises, divenendo Jeanne des Armoises e vivendo ancora diversi anni nell'omonimo castello non lontano da Domremy. Secondo questa teoria alternativa, la storia del rogo fu inscenata perché alla Francia era necessaria una santa martire per scuotere gli addormentati animi dei soldati francesi e indurli a difendersi. Pare che la tomba di Jeanne des Armoises, che secondo la teoria alternativa ospitava i resti di Giovanna d'Arco col suo nome da sposa, sia stata smantellata lo stesso anno in cui venne beatificata da Pio X come Santa Giovanna d'Arco, cioè nel 1909. Qualunque sia la vera storia, Christine scrive un'ode appassionata e orgogliosa della fanciulla guerriera passata alla storia come la paladina della libertà e icona dell'indipendenza e dell'intraprendenza femminile, accanto ad altre grandi giovani guerriere come la regina Britanna Boudicca, che cacciò per una stagione gli invasori romani, e Anita Garibaldi, che lasciò la sua terra di nascita in Brasile per partecipare alla creazione dell'Italia assieme al marito e al di lui esercito. Curiosamente anche su Anita Garibaldi circola una teoria alternativa secondo la quale ella non morì di malaria, come tramanda la storia ufficiale, ma fu strangolata. Vero o no, è altrettanto strano che per Anita sia stato eretto un monumento equestre che ospita i suoi resti sul Gianicolo a Roma, mentre i resti di Garibaldi siano rimasti a Caprera. Chissà come mai la storia delle liberazioni politiche è spesso affiancata a quella di una giovane donna guerriera immolata alla causa. Tornando al Didier de Jeanne d'Arc, il poemetto in cui Christine de Pizan celebra la gloria di Giovanna, fu scritto durante quel 1429 in cui la Puiselle d'Orléans ottenne una fulminea vittoria dietro l'altra e riuscì a liberare la Francia dall'esercito inglese. L'autrice scrive con esattezza di dettagli la cronaca del passaggio di Giovanna a soli pochi giorni dal succedersi degli avvenimenti stessi, il che significa che era molto ben informata. Per questo appare strano che non si sia poi furiosamente ribellata al tradimento e alla cattura di Giovanna. Christine non ha dubbi. Una volta ancora sarà una donna a portare la pace, perché questo è il ruolo originario della donna. Curiosamente, in modo quasi profetico, in una strofa Christine insiste sul fatto che Giovanna, prima che il re le assegnasse i soldati che chiedeva, fu scrupolosamente esaminata dal consiglio dei saggi e sapienti, per usare le sue stesse parole, per poter escludere un di lei eventuale patto col diavolo che avrebbe potuto portarla all'accusa di eresia. Inoltre, In numerose strofe, quasi voler togliere di mezzo ogni possibile dubbio, Christine sostiene che Giovanna è direttamente ispirata e guidata da Dio. Ricordiamo che il poemetto fu scritto un anno prima della cattura di Giovanna. È anche curioso come tanto la sua prima clamorosa impresa, ossia la liberazione di Orléans, quanto la sua cattura e un anno dopo la sua esecuzione siano avvenute tutte nel mese di maggio, anche se di 3 anni differenti. Come è noto, il mese di maggio è dalla Chiesa Cattolica dedicato a Maria e nelle tradizioni pagane alla celebrazione della fertilità della terra grazie all'opera della grande Dea Madre. Tra le altre curiosità, al verso 345 Christine scrive che Giovanna dovrebbe essere regina e questo potrebbe far pensare, dato che il poemetto è stato scritto proprio nei giorni in cui gli eventi accadevano, che sia fondata la teoria alternativa secondo la quale Giovanna non fu affatto una pastorella, ma la figlia illegittima della regina di Francia, dunque sorellastra del re al quale riconsegna il paese. Ma sentiamo dalle parole della stessa Christine come andarono le cose in quel 1429 così glorioso per la più grande eroina della storia. La Scuola delle Donne propone un estratto dall'edizione Le Lettere, Firenze 2013, con prefazione e traduzione di Patrizia Caraffi. Da Devana, buon ascolto. A Giovanna d'Arco, di Christine de Pizan. Io, Christine, che ho pianto per 11 anni in convento, dove mi ero rifugiata dal giorno in cui Carlo, incredibile, il figlio del re, oso dirlo, fuggì in gran fretta da Parigi per la prima volta, io rido. Rido, colma di gioia. L'inverno è finito, quando dovevo rimanere tristemente rinchiusa. Ora muterò il mio linguaggio, dalle lacrime al canto. È tornata la primavera. Io ho sofferto abbastanza. Nell'anno 1429, il sole ricomincia a splendere, ritorna la bella stagione novella che non si vedeva da molto tempo. Per questo tanti hanno sofferto e io con loro. Ma non mi affliggo più di nulla, ora vedo ciò che desidero. Così è cambiato il tempo dal grande dolore alla gioia, dagli anni che ho trascorso qui, dove sono, alla bella stagione che chiamiamo primavera, tanto desiderata, in cui ogni cosa rinasce e il gelo si trasforma in verdura. Finalmente l'erede escluso del legittimo re di Francia, che a lungo ha sofferto molti e grandi dolori, giunge di prima mattina avanzando come re incoronato, possente e maestoso, gli speroni d'oro ai piedi. Rendiamo onore al nostro re, che il suo ritorno sia lieto, gioite del suo nobile seguito. Andiamo tutti, umili e potenti, al suo cospetto, nessuno escluso, a rendergli omaggio con gioia. Tutti devono sapere, deve essere ricordato e scritto, anche se a qualcuno non piacerà, in molte cronache e libri di storia. Ascoltate in ogni angolo del mondo che evento straordinario, che sia di consolazione agli infelici colpiti dai capricci di fortuna. Vedete? Nessuno si deve affliggere delle proprie disgrazie, anche quando è ingiustamente odiato e colpito da ogni parte. Vedete? Fortuna è sempre mutevole e molti ha colpito. Chi avrebbe mai pensato, al di sopra di ogni previsione, dappertutto devono saperlo e ricordarlo, che la Francia, precipitata così in basso, potesse trasformare il male in bene. Un vero miracolo, tanto che se la cosa non fosse nota e manifesta in ogni suo aspetto, chi ci crederebbe? Un evento davvero degno di memoria. Dio, per mano di una tenera vergine, ha voluto ora, è la verità, concedere una grazia immensa alla Francia. E tu, Carlo, re dei francesi, settimo di coloro con un così nobile nome, hai dovuto affrontare una dura guerra prima che le sorti volgessero al meglio. Grazie a Dio ora vedi la tua fama innalzata dalla pulzella che ha sottomesso i nemici al tuo vessillo. Grande novità. In poco tempo si credeva impossibile riconquistare il tuo paese ormai in rovina. Adesso è evidente e qualunque sia il torto che hai subito, è di nuovo tuo, l'hai riconquistato e tutto ciò grazie all'ardimento della pulzella e all'intervento divino. E tu, pulzella benedetta, dovresti forse essere dimenticata? Tu che Dio ha onorato così tanto da farti sciogliere la corda che teneva imprigionata la Francia? Potremmo lodarti abbastanza? Tu che hai reso la pace a questa terra umiliata dalla guerra? Tu, Giovanna benedetta, benedetto sia chi ti generò. Pulzella, inviata da Dio, in te lo Spirito Santo mise la sua grazia immensa, che era ed è generosa nel donare nobilmente. Mai rifiutò le tue preghiere. Come ringraziarti? Potrei raccontare di più degli altri grandi avvenimenti del passato. Mosè, a cui la bontà di Dio donò grazie e virtù in abbondanza, per miracolo fece fuggire infaticabile il popolo di Dio dall'Egitto. Allo stesso modo ci hai liberati dal male, pulzella benedetta. Pensiamo alla tua persona, una tenera fanciulla a cui Dio dona la forza e il potere di una condottiera, colei che offre alla Francia il seno della pace, dolce nutrimento, e anniente i ribelli. Che evento straordinario! Dio compì attraverso Giosuè un gran numero di miracoli. Egli conquistò terre e sconfisse molti nemici. Ma era un uomo, forte e possente. Ma qui si tratta di una donna, più prode di tutti i guerrieri romani. Facile impresa con l'aiuto di Dio. In quanto a noi, mai udimmo raccontare di una simile meraviglia. Il coraggio di tutti i prodi del passato non è paragonabile a quello di questa donna che sta respingendo i nostri nemici. È per volontà di Dio che la consiglia e che le ha donato un cuore più grande di quello di un uomo. Si parla molto di Gedeone, che era un semplice contadino. Fu Dio, secondo il racconto, a farlo combattere. Nessuno poteva resistergli e tutto conquistava. Egli, tuttavia, per quanto lo consigliasse, non compì mai miracoli così incredibili come fece per lei. Esther, Giuditta e Deborah furono donne di grande merito, con le quali Dio liberò il suo popolo dall'oppressione. Di molte altre ho appreso che furono prodi. Attraverso di loro Dio compì molti miracoli, ma di più fece con questa pulzella. Fu inviata per miracolo e per ordine divino condotta al re dall'angelo di Dio per la sua salvezza. Le sue imprese sono reali. È stata messa alla prova dal consiglio. Alla fine i fatti lo dimostrano. Il consiglio che la fece esaminare prima di darle ascolto, da saggi e sapienti, per stabilire se dicesse la verità e prima di rendere noto che Dio l'aveva inviata dal re. È scritto nei libri di storia che lei era destinata a questo compito. Merlino, la Sibilla e Beda, più di 500 anni fa, la videro in spirito e scrissero di lei che avrebbe salvato la Francia e ne fecero delle profezie. Ella avrebbe portato il vessillo nelle guerre francesi e raccontarono nei dettagli tutte le sue azioni. Oh, che onore per il sesso femminile! È evidente che Dio lo protegge. Quando questo gran popolo di cani che ha devastato tutto il regno, ora risollevato e salvato da una donna, è stato sterminato con i traditori, 100.000 uomini non sarebbero riusciti. Fino a poco tempo fa nessuno lo avrebbe creduto. Una giovinetta di 16 anni, non è straordinario, a cui le armi non pesano, anzi sembra che sia stata allevata per questo, tanto è forte e dura, e davanti a lei i nemici fuggono e nessuno le resiste. Ella agisce così davanti agli occhi di tutti. Libera la Francia dai nemici, riconquistando roccaforti e città. Mai si vide una tale forza, in 100 o in 1.000 soldati, e dei nostri uomini prodi ed esperti, lei è la condottiera. Né Ettore né Achille ebbero una simile forza. Tutto ciò è opera di Dio che la guida. Inglesi, abbassate i vostri corni. Mai avrete la bella preda. Non usate le vostre tattiche in Francia. Siete stati sconfitti. Non l'avreste immaginato fino a poco tempo fa, quando vi mostravate così feroci. Pensavate di avere già conquistato la Francia e che sarebbe stata vostra per sempre? Ma le cose vanno diversamente, masnada maledetta. Andrete altrove a battere i vostri tamburi se non volete assaggiare la morte come i vostri compagni che giacciono, cadaveri, lungo i fossi. Cibo per i lupi, e sappiate che grazie a lei, Giovanna, gli inglesi saranno sconfitti definitivamente, per volere di Dio che ascolta i lamenti dei buoni che essi hanno sterminato. Il sangue dei morti senza speranza grida contro di loro. È finita. Essi sono condannati come malvagi. Giovanna conquisterà la Terra Santa e distruggerà i saraceni. Là condurrà Carlo, che Dio lo protegga. Farà questo viaggio prima di morire. Egli conquisterà la Terra Santa e là lei terminerà i suoi giorni, dove entrambi avranno la gloria. Là tutto sarà compiuto. Questa donna deve portare la corona, più di tutti i prodi del passato, giacché i suoi atti dimostrano che Dio le ha donato più coraggio di tutti coloro di cui si sente raccontare. E non ha ancora terminato la sua missione. Credo che Dio l'abbia mandata sulla terra perché potesse riportare la pace. Quanto agli inglesi, che se ne rida o se ne pianga, poco importa. E voi, ribelli e rognosi che vi siete uniti a loro, ora vi accorgerete che meglio sarebbe stato non tradire, diventando servi degli inglesi. Badate a voi, vi abbiamo sopportato anche troppo e ricordatevi bene della fine. Carlo fu incoronato a Reims con grande pompa nell'anno 1429, sano e salvo, circondato da baroni e gente d'armi, esattamente il 17 luglio, senza dubbio, e vi soggiornò 5 giorni con lui la Pulzella. Sulla via del ritorno, attraverso il paese, né castello, né città, né villaggio si ribellò contro di lui. Amato o odiato che sia, affranti o sollevati, gli abitanti si arrendono. Gli attacchi sono rari, tanto temono il suo potere. È vero che alcuni folli cercano di resistere, invano. Chi resiste alla fine dovrà rendere conto della sua colpa. È inutile, devono arrendersi, che lo vogliano o no. Non c'è resistenza così forte che non ceda agli assalti della Pulzella. Nonostante il grande esercito che avrebbe dovuto fermarlo con un attacco a sorpresa, non c'è bisogno di medici. I nemici sono stati tutti catturati, uccisi uno per uno. Non so se Parigi resisterà, non vi sono ancora giunti, né se accoglierà la Pulzella, ma se la città le sarà nemica, temo che darà una dura battaglia, come è successo altrove. Anche se resistono 1 ora e mezza, sono certa che avranno la peggio. Il re entrerà a Parigi, anche se resisterà. La Pulzella gliel'ha promesso. Parigi, credi che la Borgogna glielo possa impedire? Questo poema è stato composto da Christine, l'anno suddetto 1429, l'ultimo giorno di luglio. Penso che non tutti saranno lieti di ciò che racconto. Chi ha la testa china e gli occhi bassi non può guardare la luce. Explicit, un bellissimo poema scritto da Christine.